L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddei e benvenuti in diretta da Radio 24. Questa è l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale sulla cultura europea, un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet, euronet.eu, il portale che potete visitare per vedere tutti i dossier che quotidianamente vengono caricati e svolti in tante voci, tante sfaccettature della nostra Unione Europea. Come sempre potete interagire con noi attraverso i nostri social network, via Facebook e sulle pagine ufficiali del programma, oppure via Twitter, @FedericoTaddei, l'account, link minuto per minuto su tutti gli argomenti che andiamo a toccare, così che potete seguirci, potete annotarvi maggiori informazioni appunto riguardante i nostri argomenti. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dal nord, si parte dalla Svezia, si parte dalla nazione che non c'è. Sono musiche e sonorità che arrivano dalla nazione che non c'è, ovvero questa nazione c'è, si chiama Ladonia, è un gruppo di scogli, è di fatto inaccessibile, una storia curiosa, una storia strana, la storia di uno spazio che si è così autoproclamato indipendente. Ci sono degli abitanti, c'è una bandiera verde con croce verde, c'è un governo, ci sono dei cittadini virtuali, ci sono anche dei ministri, e uno di questi ministri è italiano e lo abbiamo appunto invitato per farci raccontare il perché, il significato di questa sorta di provocazione creativa. Lui è il ministro dello spettacolo e delle arti divinatorie. Diamo il benvenuto ad Antonio Grandis. Ciao Antonio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, portaci a Ladonia. Che cos'è? Ladonia è uno stato, ci piace citarlo come stato indipendente di popolazione zero. Sì. È nato per intuizione del nostro segretario di Stato, Lars Vilks, che è uno scultore svedese, che nel 1996, a seguito di una diatriba, diciamo, col governo svedese che pretendeva di distruggere le sue creazioni artistiche fatte in questo luogo impervio, dichiarò indipendenza dalla Svezia e da allora nacque Ladonia. Mm-hmm. Ma uno spazio, un luogo di quanti metri quadrati stiamo parlando? Ladonia ha una superficie di circa 1 chilometro quadrato, diviso in 6 contee, e la cui capitale si chiama Nimis. Sì. Come lei giustamente diceva, Ladonia ha un suo governo, ha una regina che è Carolina I, residente a Boston, e ha un suo governo fatto da ministri, ministri di varia natura e di varie specializzazioni. Io sono il ministro dello spettacolo. Abbiamo il con o senza portafoglio? Senza, immagino. Assolutamente senza portafoglio. Quello che ci piace chiarire a tutti è che l'esistenza di Ladonia è un'esistenza assolutamente priva di ogni fine di lucro e di intento politico, in quanto è formato per la maggior parte di personaggi, artisti o gente in ogni caso che ha un'espressione artistica da manifestare. Lo scopo principale di Ladonia è questo: riunire una serie di, diciamo, artisti e dare il contributo di questi artisti in un posto solo, che è per noi Ladonia. Ecco, ma avete avuto qualche problema burocratico, nel senso che comunque la Svezia, per esempio, ha appoggiato questa vostra operazione? Diciamo che la Svezia ha dichiarato guerra alla Ladonia più volte. Sì. Poi, molto sinceramente, la Svezia ha fatto un discorso molto, molto semplice. La Ladonia è diventato un business per la Svezia, in quanto ha, contrariamente a quello che si può pensare, un turismo dedicato abbastanza forte. Nel senso, Ladonia ha 6.000 cittadini, di cui 303 sono italiani, il resto sono sparsi per il mondo, che visitano almeno una volta le due torri di Nimis e di Arps, che sono le costruzioni principali di Ladonia. Mm-hmm. Per cui, forse per quieto vivere, ha scelto di fare un tacito accordo con noi abitanti di Ladonia. E comunque c'è un piccolo indotto economico attorno a questa micronazione, che è situata dove esattamente? È situata nel sud della Svezia, nella parte che guarda la Danimarca, in una zona che è un parco naturale, una volta era solamente accessibile via mare. Adesso è stato creato un percorso molto impervio, quasi da trekking, possiamo dire, dove si può raggiungere la zona esclusivamente a piedi. E Antonio, scusa, come si diventa ministri? Dunque, per diventare ministro devi sottoporre la tua candidatura al Consiglio di Stato di Ladonia, il quale molto candidamente, molto semplicemente, ti sottopone un quesito. Cioè un questionario, chiedo scusa. In questo questionario sono poste alcune domande, possiamo dire, bizzarre, che sono il metro di valutazione per la tua accettazione o meno. Nel senso, a secondo di quanto sono creative le tue risposte e di quanto sono, diciamo, artistiche le tue risposte, viene più o meno accettato come ministro nello stato di Ladonia. A quel punto devi tu però proporre a quale tipo di ministero vuoi essere eletto. E quindi, insomma, anche lì c'è da sbizzarrirsi. Esatto. Ma, e vi trovate ogni tanto fisicamente, tutto ciò avviene solo virtualmente? Fisicamente Ladonia, l'ultima riunione di Ladonia si è tenuta a Chelsea nel luglio di quest'anno, nella conferenza delle micronazioni. Noi siamo riuniti in consiglio tramite internet, sì, in quanto una delle caratteristiche di Ladonia è definirsi anche stato libero e tecnologico, per cui internet è il nostro mezzo di comunicazione, è quello che ci accomuna tutti, perché essendo cittadini di provenienza diversa del mondo abbiamo anche una serie di lingue diverse, anche se tengo a precisare che la lingua ufficiale di Ladonia è il latino. Ah, ok, no, ho temuto il ladonese per un attimo, invece no, insomma, c'è una base, ok. Grazie davvero Antonio, ministro, e ladonia.net è il sito internet per avere tutte le informazioni, ma sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa per seguire un po' le vicende di questa strana micronazione che c'è, ma in verità non c'è, o viceversa. Ciao Antonio, grazie. A voi, buonasera. Ricchi e poveri nell'Unione Europea, questo è il tema scelto da Euronet questa settimana. Ogni anno l'Unione Europea spende circa 40 miliardi di euro cercando di ridurre questo divario tra ricchi e poveri, divario fortissimo, tante differenze. Pensate che nelle 270 regioni cosiddette NUTS 2 dell'Unione Europea, di fatto sono delle microprovincie, è un criterio statistico per fotografare l'Europa. Il centro di Londra, non solo il più ricco ma anche il più densamente popolato, una situazione simile si può vedere a Bruxelles, questa è la terza regione più ricca dopo il Lussemburgo, e qui stiamo parlando di ricchi. Poi invece c'è tutta la parte delle zone poverissime, un divario che è la cui riduzione è uno degli obiettivi della Commissione, che ha proposto proprio in questi giorni un fondo di aiuto europeo agli indigenti per avere una fotografia reale di quella che è la povertà e la ricchezza in Europa oggi. Abbiamo invitato Manuela Gelling della Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della Commissione Europea. Buongiorno Manuela, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Si può fare una fotografia? È vero che persistono delle differenze di reddito così ampie all'interno dell'Unione? C'è da dire che la povertà non è un fenomeno nuovo all'interno dell'Unione Europea, ma la crisi ha certamente aggravato la situazione e le disparità sono aumentate. Soprattutto all'est dell'Europa e al sud dell'Europa hanno delle tassi di povertà più elevati del resto dei paesi membri. Attualmente all'interno dell'Unione Europea si contano 116 milioni di persone che sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, di cui un terzo direi che si trovano in una situazione di indigenza particolarmente grave. Le conseguenze dirette della crisi ovviamente sono state aumentare questa questo numero straripante di indigenti, ma anche aumentare il divario tra, ovviamente, tra i ricchi e i poveri. Sì, la crisi ha aumentato il rapporto tra la popolazione più ricca e la popolazione più povera, soprattutto all'interno dell'eurozona. C'è da dire che anche se guardiamo all'interno delle varie società, sono soprattutto le persone che si trovavano già in una situazione precaria che sono ora ancora più esposte alla povertà, e parlo dei giovani ma soprattutto dei bambini. Manuele, è possibile fare delle previsioni per il futuro, nel senso che già la situazione attuale ha tantissimi punti di criticità, ha senso guardare avanti, o è così grave la situazione presente che state cercando comunque di portare rimedio al qui ed ora senza guardare al futuro? Beh, è vero che se a breve le prospettive forse non sono tanto incoraggianti. Per l'anno prossimo si prevede all'interno dell'Unione una crescita economica positiva, seppur ancora debole, quindi bisogna guardare con ottimismo al futuro. Insomma, questo è incoraggiante come messaggio. Manuela, ci sono azioni intraprese fino ad ora dalle istituzioni europee per appianare queste differenze? Ci sono appunto progetti in atto? Certamente, l'Unione Europea ha adottato una strategia che si chiama la strategia Europa 2020, che ha come unici obiettivi la crescita economica e l'occupazione come principali obiettivi. All'interno di questa strategia un ruolo importante è lo svolto e la lotta alla povertà. L'Unione si è fissata come obiettivo di avere nel 2020 20 milioni di poveri in meno. Chiaramente ogni Paese membro dovrà apportare il proprio contributo alla lotta alla povertà. Quello che l'Unione Europea fa, lo fa attraverso soprattutto la politica di coesione economica e sociale, che mira a ridurre le disparità all'interno dell'Unione. In questo ambito il Fondo Sociale Europeo già dà un contributo importante all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà, aumentando la possibilità di entrare sul mercato del lavoro o di migliorare le competenze delle persone. Tuttavia ci sono persone che si trovano troppo lontane da una prospettiva occupazionale e che quindi non possono beneficiare del Fondo Sociale Europeo. Mi riferisco anche ai bambini, per esempio. Leggevo proprio dei numeri che sono agghiaccianti. Nell'Unione Europea sono più di 25 milioni i bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale. Più di 5 milioni di bambini non possono permettersi indumenti nuovi. Più di 4 milioni e mezzo di bambini non hanno due paia di scarpe del giusto numero, che sembrano cose banali, ma sono indice invece di povertà vera, povertà reale. Esatto, e proprio per questo motivo la Commissione ha deciso questa settimana di creare un fondo di aiuti europei ai più indigenti, che potrà aiutare non solo le persone più povere, ma anche i bambini, fornendo un aiuto attraverso la fornitura di prodotti tipo scarpe, vestiti, oppure aiutando i senza tetto con coperte e beni di prima necessità. Come sempre, ec.europa.eu/social per avere maggiori informazioni su quello che sta accadendo all'interno della Commissione. Ringraziamo Manuela Gellinger della Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della Commissione. Buon lavoro, Manuela. Grazie, arrivederci. Trans Europe Express cita questa canzone. Con l'altra Europa, lo sapete, ci piace raccontare l'altra Europa, quella nascosta, quella diversa, quella spesso ai confini. Crediamo da sempre che l'Unione Europea sia soprattutto un'unione culturale, fatta di differenze, fatta di contaminazioni, fatta di scoperte, fatta soprattutto di di incontro. E credo che tutto ciò sia ben racchiuso e sia ben narrato in questo libro appena uscito per Feltrinelli, si chiama Trans Europa Express. Racconta un viaggio non solo esteriore, ma un viaggio interiore, a cavallo dell'Europa che c'è e dell'Europa che non c'è. Il viaggiatore, il narratore, lo scrittore che ha fatto questo viaggio e che è riuscito, come sempre, a evocarlo benissimo con le parole, è Paolo Rumiz, che è qua con noi. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Eccomi a voi. La conosci bene tu l'Altra Europa, vero? Ma insomma, sono più... non sono un viaggiatore sistematico, sono uno che fa dei carotaggi così dove capita e cerca di raccontare quello che vede. È lo stesso modo con cui attraverso l'Italia o l'Europa, chiamiamola maggiore. Il motivo per cui sono partito in quella direzione è che dopo aver perso la frontiera che avevo sempre detestato, sì, a pochi metri dalla mia città, Trieste, cioè il confine con l'ex Jugoslavia, oggi Slovenia, mi sono ritrovato senza qualcosa che mi aveva, alla fin fine ho scoperto, sempre spinto al viaggio. La frontiera era la linea rossa oltre la quale era bello rischiare, era bello sentire lingue nuove, era una linea che era bello varcare. Quando questa linea è scomparsa, mi sono detto devo trovare altri stimoli di viaggio e ho cercato un'altra frontiera, la più vicina era questa. Una volta che la cortina di ferro è scomparsa, ho dovuto cercare più a oriente e la scoperta più stupefacente è stata che a oriente della cortina di ferro, quindi a oriente di quella che noi chiamiamo Mitteleuropa, Centro Europa, quindi più in là ancora, c'è il cuore di questo continente. Il cuore del continente è a est, è oltre quello che noi crediamo essere, quella che noi riteniamo essere periferia, ecco. Mm-hmm. Questa è stata la più bella scoperta, trovare che il cuore del continente, la sua anima profonda, è un'anima slava, è un'anima profondamente intrisa di ebraicità, o perlomeno del vuoto di questo mondo ebraico, soprattutto mondo yiddish, che si sente, e come si sente quando sai leggere le linee maestre del territorio in quelle zone del continente. La tappa iniziale di questo viaggio, Paolo, qual è stato? Un paese praticamente sconosciuto? Sono partito dall'estremo nord, no? Sì. Il viaggio è un viaggio verticale, perché la frontiera dell'Unione Europea, la frontiera orientale dell'Unione Europea è verticale, quindi un viaggio che passa, andando verso sud, passa dai freddi 0 gradi, meno 1, più 1 del Mar Glaciale Artico, con nevicate che ci siamo presi, fino giù, fino a Istanbul, dove abbiamo trovato temperature di quasi 40 gradi, questo nel giro di un mese e qualcosa. Quindi un viaggio nella longitudine, un viaggio verticale, partito dal punto in cui la Norvegia tocca l'ex Unione Sovietica, e quindi il cui confine coincide ancora con la vecchia cortina di ferro. Ecco, lì puoi provare ancora il brivido di qualcosa di molto antico, queste torrette in mezzo alla taiga, presenza molto forte di soldati, c'è sempre un occhio che ti sorveglia, è una frontiera ancora calda questa tra Norvegia e Russia. Molte volte ti hanno chiesto perché eri lì, e da dove venivi, no? Tu dicevi sono un italiano, sono qui per capire. Beh, diciamo che perché venivo lì, sì, erano stupiti del fatto che un italiano che veniva dal paese del sole andasse a cacciarsi in quei luoghi che normalmente sono bigi, freddi e inospitali. Io in realtà ero incantato da queste terre, da queste giornate infinite, da questo sole che mi entrava nella stanza all'una del mattino, da tutti questi spaesamenti dell'uomo mediterraneo abituato alla notte. Io bevevo questo mondo diverso con grande curiosità, con grande sete. E poi diciamo che in quel mondo, che in gran parte dicevo prima, un mondo slavo, esiste un'etica e un costume dell'accoglienza che è molto molto forte. Cioè bastava che io scendessi dal treno, perché ho dimenticato di dire che ho viaggiato quasi sempre con mezzi pubblici. Sì. Quando scendevo dal treno con la mia barba bianca, il mio zaino e anche un bastone perché avevo un problema a un piede, mi chiedevano da dove venissi, cioè gli sembrava impossibile che un uomo dell'Europa ricca viaggiasse così, senza timori, in un treno russo, senza paura di essere svaligiato, affrontando gli stessi disagi, mangiando e bevendo lo stesso cibo. E questo li incuriosiva, li avvicinava molto e faceva sì che mi invitassero a casa, mi invitassero a mangiare, talvolta anche a dormire. Ho dovuto pochissime volte mettere mano al portafoglio in questo viaggio. Paolo, ma quando parli del cuore d'Europa, è un cuore reale, è un cuore che batte ancora? Assolutamente sì, perché ma devi andare tra la gente semplice, perché purtroppo diciamo tutta quella zona della Russia, come penso gran parte della Russia, è in mano ai predatori della mafia. Però se tu hai contatti direttamente con la popolazione, e questo è molto più facile se non viaggi in automobile, ma ti mimetizzi con loro, con le folle che fanno la fila al botteghino dei biglietti del treno, capisci che tocchi un'umanità di un calore, un'umanità che ha sofferto e come tale che ha subito cose pazzesche, perché ha subito il nazismo, ha subito il comunismo più pesante, ha subito la scomparsa degli ebrei. Diciamo che sono popoli che hanno nella memoria di ciascuna famiglia delle cose terribili e questo li rende molto solidali, molto, hanno gli occhi umidi quando ti guardano, spiano in te il desiderio di solidarietà. Diciamo, mi sono abituato in quel viaggio a una temperatura umana che era sconosciuta dalle mie parti. Devo dire che tutte le volte che rientravo a Occidente, perché questo mio viaggio è stato una specie di slalom gigante fuori e dentro la frontiera, tutte le volte che rientravo verso Occidente sentivo che la temperatura umana, la solidarietà, l'accoglienza diminuivano. Mm-hmm. C'era più sospetto nei confronti del forestiero che arrivava così umilmente, che si presentava davanti a un alberghetto con lo zaino, con il bastone. Già a Varsavia mi guardavano come fossi un pidocchioso, mentre a Oriente questo non accadeva. Io mi sentivo molto più a casa fuori dall'Unione Europea che dentro l'Unione. E questa è una cosa che mi sono portato dietro da questo viaggio e non potrò mai dimenticare. C'è una sorta di mappa di viaggio all'interno del libro, proprio fatta uno schizzo. Il centro d'Europa l'hai più o meno localizzato, il vero centro d'Europa, poco a sud dei Monti Carpazi? Beh, ma ci sono tanti centri d'Europa, dipende che cosa consideri per Europa, perché in realtà l'Europa non è ben chiaro dove finisca. Se veramente sono gli Urali oppure si va ancora un po' al di là degli Urali, dipende quale è il nord e quale è il sud che prendi in considerazione. Ci sono parecchi centri, uno è in Lituania, un altro è in Ucraina, un altro è in Bielorussia. Comunque sia, il centro d'Europa corre lungo questa linea verticale che ho percorso a zig zag da nord a sud. Un viaggio di incontri, ce n'è uno che più di qualunque altro ti porti ancora con te? Ma diciamo che ce ne sono tanti, per cui è difficile scegliere, però immagino. Il primo che mi viene in mente è un pope ortodosso, russo, gigantesco come un orso, che era stato un rambo delle forze speciali russe in Cecenia, poi aveva mollato l'esercito perché aveva visto cose troppo spaventose, si era dedicato al business, ma anche dal business si è ritirato perché ha trovato che i suoi compagni di viaggio, i suoi compagni d'affari erano altrettanto pericolosi della guerra, diciamo, delle situazioni di guerra, il business era più incandescente, più pericoloso della guerra, e ha deciso di fare il prete ed mi ha invitato a cena. Mi ha invitato a cena, ero lì con la mia compagna di viaggio, bravissima, Monica Bulai, che ha svolto in quel viaggio un lavoro assolutamente egregio, perché ha fotografato, ha filmato, ha tradotto, ha intuito le situazioni che potevano essere più interessanti, e ci ha invitato a casa sua. A casa sua abbiamo dato vita a una cena straordinaria, a base di cibi portati dai vari ospiti, e con infiniti brindisi, alla fine siamo usciti alle 4 del mattino, ovviamente col sole già alto, completamente sfatti, sì, ma pieni di letizia ed allegria nel cuore. E fu lì che, dopo vari racconti di quello che era stata la mia esperienza, di qual era il mio mondo, della mia Trieste, del mio Adriatico, del mio mare Mediterraneo, uno di questi ospiti disse che Dio ti dia altri 60 anni come questi per poter raccontare altre storie così. Mi sembra un ottimo augurio che facciamo nostro. Grazie davvero Paolo Rumiz, Trans Europa Express per Feltrinelli. Ciao, buon viaggio, buona Europa. Ciao Paolo. We decided that the two Iranian proposals are awarded with the Sakharov Prize, and I want first of all to congratulate both of the courageous people, the woman and the man who are fighting for freedom of speech, of freedom of art, for protection of individual rights in a regime which is, by the award we give to those people, also challenged to change and to respect individual rights. And I'm really proud that I can tell you this was a unanimous vote. Never in all the years I'm a member of the European Parliament I saw that the conference of presidents was unanimous. Quello che state ascoltando è il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz che commenta la decisione unanime di assegnare il premio Sakharov, il premio istituito dal Parlamento europeo nel 1988 allo scopo di premiare personalità ed organizzazioni che abbiano dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani e alle libertà individuali. Quest'anno il premio appunto assegnato a due iraniani, all'avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sulhuteh e al regista Jafar Panahi. Per commentare questa importante decisione abbiamo invitato Mahmoud Hamrin Moghaddam, portavoce di Iran Human Rights International. Buongiorno, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Lei vive a Oslo, dove insegna medicina, però all'Università di Oslo, però appunto è portavoce di questa importantissima organizzazione non governativa. Come avete preso questa decisione, questa assegnazione del premio Sakharov a due iraniani? Noi siamo naturalmente molto contenti perché questo premio è un premio molto importante. In passato il premio è andato a personaggi come Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi, quindi è un premio molto, molto prestigioso. Il fatto che il premio è andato agli iraniani dimostra che il mondo non ha dimenticato gli uomini e le donne iraniani che stanno lottando per i diritti umani, per la libertà di parole ogni giorno, perché purtroppo negli ultimi anni la maggior parte dell'attenzione dei media su Iran si concentra sulla questione nucleare e conflitti tra il governo iraniano e la comunità internazionale, mentre in realtà il conflitto più grande è quello tra il popolo iraniano e l'autorità. Perché da un lato c'è un popolo che chiede i suoi diritti umani fondamentali e dall'altro lato un regime che è disposto a fare qualsiasi cosa per mantenere il potere. Come sappiamo, per esempio, i critici sono messi in prigione, torturati, i media sono completamente controllati dall'autorità e tutto il resto è censurato, e le donne sono sotto discriminazione. Certo. In questa situazione il regime ha soltanto una soluzione, il loro potere si basa solo sulla paura. Mahmoud, ci puoi fare un velocissimo profilo dei due iraniani che hanno vinto il premio? Chi sono e il perché la scelta di dare proprio a loro questo importante riconoscimento? Sì, Nasrin Sotoudeh è una straordinaria avvocatessa per i diritti umani che ha trascorso buona parte della sua vita a difendere i diritti dei bambini e dei minori, alcuni di quali condannati a morte. Jafar Panahi è uno dei rappresentanti più importanti del cinema iraniano. Il suo lavoro si è concentrato sempre sulla situazione sociale nel paese. Lui è stato arrestato 2 volte e per ora non può fare film per i prossimi 20 anni per aver esercitato il suo diritto di espressione. Quindi loro sono due persone meritevoli per questo premio, ma volevo dire che questo premio manda un messaggio a Nasrin, a Jafar, a tutti gli altri difensori dei diritti umani che il mondo non li ha dimenticato e che noi sosteniamo la vostra lotta. E per il popolo iraniano questo premio è tutta l'attenzione positiva che viene dal mondo, dà ispirazione e motivazione per continuare questa lotta e per avere fiducia che il buio passerà. Dopo questo premio pensa che l'Europa sia più vicina all'Iran? Europa e Iran, secondo me, il popolo iraniano e il popolo in Europa sono sempre stati vicini. Noi speriamo che anche politicamente saremo ancora più vicini, che l'Europa dà ancora più attenzione alla situazione del popolo iraniano, alla situazione dei diritti umani. E questa secondo me è importante, anche manda un messaggio all'autorità iraniana, che il mondo vi sta guardando, sta registrando quello che fate e un giorno sarete chiamati a rispondere per tutte le violazioni dei diritti umani. iranhr.net, il sito ufficiale di Iran Human Rights, per conoscere tutte le attività. Grazie davvero a Mahmoud, il portavoce. Dimmi. Scusi, sì. Io volevo anche dire che c'è un sito italiano anche, sì. iranhr.it. Perfetto. Dove potete leggere tutto in italiano e anche volevo dire che tutti che vogliono aiutare il popolo iraniano possono contattare iranhr.it, perché la lotta per i diritti umani è una lotta globale e abbiamo bisogno di tutto aiuto che possiamo. Ci fa piacere poter diffondere questo appello. Grazie, buon sabato, buon lavoro. Grazie. Letztes Handanlegen am Geschützbunker in Thale, etwa 50 Kilometer von der albanischen Hauptstadt Tirana entfernt. Holzdielen zieren den eigentlich schmucklosen Beton-Iglu, eine Nasszelle und Platz für bis Abbiamo zu 8 Reisende. Pochissimo Hier tempo, però mi piaceva sfiorare anche questo argomento. Quello che state ascoltando è un servizio radiofonico che parla di una iniziativa ideata da una studentessa albanese e secondo me è geniale. Si parla sempre di creatività in tempo di crisi, di sostenibilità come appunto nuova vocazione soprattutto dei giovani, e da Tirana parte proprio questa iniziativa che si chiama così, sintetizzata Bed and Bunker, come trasformare in bed and breakfast i tanti bunker che ancora punteggiano il territorio albanese. E con noi c'è il professore dell'Università di Tirana, insegna architettura di interni ed è il capo progetto di questo bed and bunker realizzato dalla Polis University di Tirana insieme all'Università di Mainz, Magonza. Diamo il benvenuto al professore Hendrit Marku, buongiorno. Buongiorno, un saluto da Tirana. Abbiamo veramente 2 minuti, diamo un assaggio di questo bel progetto, poi ci torneremo sicuramente in una delle prossime puntate. Veramente è possibile trasformare questi bunker in luoghi di ospitalità? A quanto pare sì, anche il costo è poco. Sicuramente sono delle strutture molto interessanti del nostro paesaggio, che attirano molto l'attenzione soprattutto dei turisti, anche nostra, però per noi ormai sono abitudine. Sono delle strutture che vale la pena preservare e si possono trasformare. Con piccoli interventi, poco costo, possono essere disponibili per tutti. Sono 150.000, anche se il censimento non è chiarissimo, ancora i bunker esistenti. E voi avete sperimentato questa trasformazione su un bunker in particolare, vero? Sì, ci sono varie tipologie. Sicuramente ci sono decine di migliaia di bunker, non so esattamente quanti. Questa tipologia è molto particolare, è la più nota, questa tipologia semisfera. Sì. Ed è anche un po' più rara delle altre, perché è di dimensioni un po' più grandi, sono adatte a ospitare molte persone. Mm-hmm. Questa idea l'ha avuta una tua studentessa? No, l'iniziativa nasce da questa studentessa albanese che studiava in Germania, che è stato il punto di contatto delle nostre università. Mm-hmm. Poi questo progetto è stato sviluppato in cooperazione nostra con i nostri studenti, 20 studenti, 10 albanesi e 10 tedeschi. Progetto e costruzione. Avete già provato a dormire almeno una notte in questo bed and bunker? Ma veramente io non ci sono riuscito a dormirci, perché la situazione è stata tale che noi abbiamo dovuto inaugurare il progetto e poi partire. Però c'è stato qualcuno che ha dormito. Ok, e funziona, cioè nel senso che la è una prospettiva reale quella che avete tratteggiato. Assolutamente sì, è un prototipo sicuramente. Sicuramente noi non è che possiamo dare il via a un business, però poi alla fine è un'iniziativa che funziona, si può fare e sicuramente avrà i suoi frutti nel futuro, credo. bedbunker.org è il sito ufficiale. Grazie davvero professore, complimenti a lei e complimenti a tutto lo staff. Grazie a te. Grazie. E questo grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ine e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, e come sempre potete farvi vivi, l'indirizzo è l'Altra Europa @radio24.it.